Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Benvenuti, bentornati, come state? Come stai, chef? Ciao Pier, bene, bene, molto bene. Molto bene, anch'io sto molto bene. Vi ricordiamo il nostro numero di WhatsApp 349-238-6666 per quelle che sono ovviamente gli SS Oldani, i vostri consigli, le vostre richieste all'amico chef Oldani. Oggi parliamo di un re. Di una cosa molto molto che mi piace attuale, molto. Devo dire molto. Che è un prodotto anche questo delle nostre acque, soprattutto quello più di qualità. Parliamo del tonno. Del tonno, avremo degli ospiti straordinari quest'oggi, ovviamente, insomma, poi contamineremo, parleremo anche di Mediterraneo in generale. Ho mille curiosità sul tonno, ma ho già in linea il primo ospite, che è Vittorio Sgarbi. Come va? Eccolo. Come Vittorio, va? Ciao, come buongiorno. Va? Ecco, infatti ero mi è venuto in mente questa mattina, dico, ma Oldani doveva chiamarmi ieri, invece sì. Mi ha rimandato il giorno, perché infatti io ho mantenuto vigile il mio telefono con la... Grazie Vittorio della tua bontà. Ma Oldani è un artista. Grazie. Sgarbi, artista, questi chef di alto livello sono paragonabili ai grandi artisti dell'arte moderna, del contemporanea, oppure... Sono del Rinascimento, sono meglio degli artisti e appartengono a una fascia più autentica e popolare e anche aristocratica, nelle due interpretazioni nobili di popolare e di aristocratico. Oldani poi è uno dei fondatori del Rinascimento, quindi avrà anche un ruolo politico importante. Quando facciamo un rimpasto adesso e ho dedicato Bottura come ministro, in realtà metteremo Bissani sottosegretario e Oldani presidente della commissione agricoltura e turismo, insomma, tutte queste cose. No, metterlo su una cosa, cioè, o ministro della salute, Oldani. Perché sai che lui ha una cucina gustosissima ma molto equilibrata, molto. Poi ha questo nome da presidente del consiglio, Oldani. Poi comunque ha uno spirito politico, perché le cose le fa non solo per il piacere ma anche per l'ordine del mondo. E tra l'altro è tra le persone note in questo campo che non ha prezzi stratosferici, che crea sempre un'irritazione profonda. È proprio, diciamo, è uno spot, eh? Allora ricordiamo, sì, che Oldani lo potete trovare a Cornaredo, al ristorante Dosso. E potrete anche andarci senza... Sta parlando col cuore, Vittorio. Sta parlando col cuore. Lui ha scritto e ha detto delle cose che hanno un carattere politico, però in generale, a parte la sua maturità e dimensione intellettuale, cosa è capitato negli ultimi 60 anni, nel passaggio primo o secondo dopoguerra, che la cucina era delle donne e c'erano delle cuoche anonime e non riconoscibili. Poi gli uomini, che hanno perso ogni terreno in tutte le discipline, dai carabinieri, meno la chiesa, ai prefetti, agli ambasciatori, ai professori, ai presidi, gli uomini hanno conquistato lo spazio delle cucine e oggi non c'è una cuoca ma un cuoco. Sì, e lo chef, vero, è un capo politico e fanno quelle cose lì. Direi che delle donne ce ne sono meno, però buone, molto brave. Senti, ma tu come te la cavi? Ecco, quindi dicevo, no, devo rispondere per dire che Oldani appartiene a questa dimensione del cuoco, che non è una figura minore ma è un leader. E questo, per chiudere, l'ha detto perfino in una conferenza Renzi qualche mese fa, dicendo: un tempo stare in cucina era una cosa, oggi essere chef è una carriera in cui uno ci mette impegno e passione, quindi proprio antropologicamente. Sì, l'ha detto anche da noi, l'ha detto anche da noi qualche puntata fa. No, invece, è un dato oggettivo. Professor Sgarbi, lei come se la cava in cucina? Le piace? Si diletta? Io invece appartengo a un mondo santo e bello in cui solo le donne stanno in cucina. Io non sono mai entrato in una cucina, non ho mai fatto un piatto in vita mia, non ho nessun rapporto con la cucina e trovo anche abbastanza disdicevole che gli uomini abbiano preso questa posizione, quindi sono totalmente contrario. Quindi Vittorio è uno di quelli che aiuta l'economia italiana, quindi abbiamo bisogno di gente, però, che non sta in cucina. Però, la il mio partito è di quelli che mangiano, di quelli che vanno al ristorante e mangiano. E vogliono che le donne siano in cucina e non rompono i coglioni. No, vabbè, però, per questo la puoi mi dissocio, scusa Vittorio. La linea è un po' arcaica. Sì, però, sì, ma se ti dicessimo che la puntata è tonno, cosa ci rispondi in maniera poetica, artistica, critica? Solo dire che la mia unica esperienza in cucina è legata a un fenomeno molto lontano, eravamo negli anni 60, forse 63-64, un senatore, traduttore di Racine, che si chiama Roffi, era un grande gourmet, uno pieno di... E quindi andavamo in giro con i miei genitori, andavamo a Ravello, e lui faceva, oppure veniva a casa, era bravissimo, era un intellettuale, e cucinava, gli piaceva cucinare, ma voi non eravate ancora nati. Mi ha insegnato che la carbonara, poi arrivo al tonno, della carne di quei pezzi di guanciale, che hanno un po' di grasso e un po' di magro. Quindi lui metteva, preparandolo, a cuocere prima il magro e poi il grasso, che a tempi di cottura più deboli. Mi sembrò molto sofisticato e una volta lo sperimentai anch'io. Quindi questa è l'unica esperienza che ho avuto. Dani è fra il perplesso e l'estasiato. No, dico che... Questo divideva il cubetto a metà e metteva due minuti prima il magro, e poi dopo il grasso, che era più veloce, per evitare che avessero cotture diverse. È segno di intelligenza questo, di sapienza sofisticata di Mario Roffi, traduttore di Racine, senatore del Partito Comunista e grande intellettuale scomparso da molti anni. Io devo dire che il tonno, ammesso che sia, come credo, un pesce, è l'unico pesce che mangio, perché io odio il pesce. Per me il pesce sono come le orientali. Cioè, io se provo desiderio sessuale lo provo per una romagnola, per una siciliana, per una milanese, mai per una orientale. E però se poi me la portano mangio anche l'orientale, ma sì. Quindi io non ho desiderio del pesce. Sì. Per me, quindi il tonno invece lo mangio nelle scatolette dove il cazzo si mangia, nei condimenti, quasi come se fosse carne. Ah, ecco. Ma quindi ho un rapporto quasi positivo. Questa cosa dell'orientalità anche del tonno mi fa pensare al sushi. Sì, ti fa pensare al sushi, però calcola che un bel po' di tonno che viene esportato dall'Italia al Giappone o comunque in Asia è un prodotto veramente italiano di qualità, perché nell'oceano c'è un'altra tipologia e soprattutto un altro gusto, che non è quella che desidera il giapponese per poterlo mangiare. Quindi sono queste battute di tonni, questi acquisti e queste aste di tonni, soprattutto dentro il Mediterraneo, dove vengono queste grandi navi, dove pescano i tonni, li portano, li abbattono a meno 90 gradi più o meno per reggere il viaggio di ritorno e per essere conservati. Le capitali del tonno italiano quali sono? Carloforte, poi ci andremo, la Sicilia. La Sicilia, tutto quello che è il basso Mediterraneo è di grande importanza. La cosa curiosa, quando questi tonni arrivano sul mercato centrale di Tokyo, che fanno un'asta ancora come si faceva una volta, con la chiamata, non è digitale, non è con l'aiuto tecnologico, ma con la chiamata, vale a dire che c'è una parte della coda congelata ancora, tagliata e rialzata, e con queste torce i pescivendoli, i tecnici, i cuochi che vanno a vedere al mercato controllano la parte grassa o magra del tonno per poter dare un valore economico al prodotto. E adesso ripartiamo da qui e ripartiamo anche dalle passioni alimentari, gastronomiche. Mi sa che Sgarbi è un pastista, se non ho capito male. Traffico. Mangia come parli, mangia come parli. Vittorio Sgarbi, ricordiamo 349-238-6666 per i vostri WhatsApp, per gli SOS Soldani. Ferrara, il luogo dove tutto ha avuto inizio, quindi cucina di terra, carboidrato, pasta, nelle passioni. Beh, io sono un mangiatore di primi, sono un primista, mangiatore di primi. Sul tonno voglio chiudere ricordando la bellissima esperienza sia pittorica che umana dei Rais delle tonnare siciliane, quindi luoghi che poi hanno perso il loro luogo, forse per non so quale violenza che ci fosse in quel tipo di caccia al tonno, ma la tonnara è proprio un'esperienza meridionale siciliana in particolare. Mentre io, che sono nato a Ferrara, oltre alle meraviglie dei cibi ferraresi, come si chiamano mai, non le lasagne ma le il pane ferrarese, quello più conosciuto, sono lasagne, ma sono una pasta a strati, sì, che ha un nome particolare che mi viene in mente. Una sfoglia, e poi, non è la sfoglia, no, è come, sai, come il pasticcio alla ferrarese, sì, l'ho trovato su internet, quella a strati, sì, ce l'ho qui davanti. Adesso siamo in radio, quindi non posso vedere la foto. In Italia ci sono alcuni punti dove fanno il tonno finto per riprendere la consistenza del tonno in scatola, però fatto con una carne di coniglio, con una carne bianca, e dalle parti entroterra, Ferrara e Liguri hanno questa usanza. No, professor Sgarbi, le eccellenze del Made in Italy sono ovviamente di carattere artistico. Quanto è forte questo legame? Quanto è profondo il legame fra le nostre eccellenze enogastronomiche e le nostre bellezze? Cioè, c'è la tendenza, forse, se vuoi, è un gioco di marketing, a vendere un po' tutto insieme come un unico pacchetto Italia? Io ho fatto un sodalizio di grande amicizia, di grande considerazione con Berlusconi, che avremmo voluto avere, che non fu, che è Oscar Farinetti, che fa il comunista, ma in realtà è un capitalista intelligentissimo, e lo è partendo dalle premesse di Tonino Guerra come profeta e poi di Petrini, con questa invenzione miracolosa e politica che è Slow Food, di inventare Italy. Italy è stata, poi qualcuno ce l'ha con lui perché è troppo potente, ma è una potenza che serve a valorizzare la cultura tutto quello italiana. Che è creato. E allora quella volta all'Expo, come ricordo Aldani, lui ebbe l'intuizione di dirmi: se c'è il buono regione per regione, fammi vedere il bello regione. Abbiamo fatto la mostra più bella del mondo rispetto a quella schifezza che avevano fatto con il Palazzo Italia, in cui quelle cose di Stato spendendo milioni, centinaia di milioni. Noi abbiamo speso un po' di denaro, poco, 700.000 euro di Farinetti, abbiamo creato la più bella mostra del mondo, dal 300 ad Echinico, con tutti questi grandi maestri, che stava al piano superiore di Italina. È veramente un'esperienza di cui ero convinto anche lui. Poi Italina America è come Metropolitan, vai a vedere i maestri italiani al Metropolitan e poi vai sempre per un imbecille, e poi scusi, stavo parlando con la mia assistente che è una cretina totale. Ma come Sgarbi? No. Se devi stare in cucina, marmeggia il telefono, toglie le cose che sto correggendo. Ma lasciamo bene. Vai, solidarietà, cucina, solidarietà all'assistente. Cretina! No, vuole bene, ma insomma. Vittorio Sgarbi, grazie. Mi tratti Vittorio. Bene quella ragazza. Avete rotto i coglioni. Grazie, fa piacere. Grazie. Mi saluti Paola, Mangiare a Cornaredo, cornuto. Va bene. Insomma, ma fin dal mattino Sgarbi è così in forma. È raro trovarlo così presto. Fra poco abbiamo la ricetta, la vogliamo dare adesso oppure andiamo subito da Luigi Pomata? La diamo fra poco, all'inizio del prossimo blocco. Pronti per gli appunti, naturalmente, sarà una grande ricetta. E invece, esatto, sarà una grande ricetta. Pronti con gli appunti. Invece Luigi Pomata è uno chef. È lo chef del tonno, o sbaglio? Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Luigi. Grazie della tua disponibilità, del tuo tempo. Parliamo allora di Carloforte, giusto? Una delle capitali mondiali del tonno. Beh, fortunatamente sì, è quello che dicono in giro per il mondo, anche perché diciamo che abbiamo una delle ultime tonnare di posta, quindi che viene calata a maggio e tirata su a giugno, che pratica pesca ecosostenibile. Parliamo una delle più antiche al mondo, perché Carloforte è colonizzata dal 1738, ma dati storici dicono che la tonnara appartiene al 1480 con gli insediamenti spagnoli. E c'erano allora tre tonnare, adesso ne sono rimaste due, ancora in pesca, ancora con la pesca tradizionale, quindi la famosa mattanza che non si fa più adesso. Devo dire che Luigi è un collega stimato, grandissimo, e soprattutto è un conoscitore della materia prima. Ecco, mi spiegate, un po' di cose tecniche. Cioè, mi viene pinna rossa. Mi viene a chiedere a Luigi questa frase che si usa nel milanese, cioè quando noi utilizziamo nelle stagioni più fredde il maiale, diciamo si usa tutto. È una frase che è ricorrente anche nel tonno. Tu sei stato il primo, se non uno dei primi, se non il primo, ad utilizzare tutte le parti del tonno. Io vorrei da te un consiglio, un'idea, che non, anche se non fosse una ricetta, però una parte del tonno curiosa che tutti quanti, quando ce l'abbiamo davanti, magari scartiamo e non ci rendiamo conto che scartiamo il buono. Di solito si scarta la parte che rimane attaccata alla testa, il frontale, che è una parte grassa, non come la ventresca, e quella parte, quando noi sfilettiamo il pesce, la puntina finale, ecco. Quello è il frontale del tonno, è una delle parti migliori che tutti scaldano. Da mangiare cruda, da mangiare cotta, da mangiare confì? Da mangiare cotta o da mangiare confì? Quindi una cottura dentro un grasso, un olio a bassa temperatura, giusto? Tipo a 80-90 gradi per mezz'ora, 40 minuti. Sì, mezz'ora, 40 minuti è eccezionale. Oppure la ventresca, ecco, quando viene pescata a maggio, che è l'apice della bontà. Io sottolineo a maggio, perché noi facciamo una pesca di andata, quando il tonno entra da Gibilterra per deporre le uova. Quindi è un tonno che è ricco di omega 3, grassissimo, e ha lo stomaco vuoto. Carloforte non pesca mai il tonno di ritorno. Infatti io da giugno, da metà giugno sino a tutto luglio, io non tocco tonno, com'è questa migrazione? Ci insegna anche che fanno sui tonni? Che la stagionalità. Allora, entra da Gibilterra a inizio maggio per deporre le uova, diciamo tra Sardegna, Sicilia e Malta. Quello è il triangolo d'oro del tonno. In che periodo depone le uova? Maggio, fine maggio, giugno. Con i mondiali. E quindi noi prendiamo il tonno di andata, che ha lo stomaco vuoto. Non sono stati mai trovati tonni con la pancia piena di sardine. E una volta che si è accoppiato, il tonno diventa gelatinoso, quindi non è buono per noi. Ah, fantastico. Senti, no, una curiosità ancora: lo stop alla cattura del tonno rosso, cosa ci puoi dire? Anche per gli sportivi, per quelli, insomma, quelli che lo fanno un po' per divertimento, la pesca, così, cosa ci puoi dire? Va fatta la navifattoria, perché sono loro che distruggono gli stock del tonno, e non solo, perché pensa, cioè, che i piccoli pescatori, cioè i piccoli sportivi, piuttosto che le grandi navi che vengono magari dall'Asia, allora, e li portano via tonnellate. Il piccolo sportivo sa quando fermarsi. La tonnara addirittura pensa che pesca il 3% del tonno che passa a Carloforte da altre parti. La nave fattoria, quello che pesca in un giorno, equivale a una stagione di pesca di tonnara, quindi la proporzione è fatta. E tra l'altro, la nave fattoria prende il tonno da 10 kg, prende il delfino, prende la tartaruga, perché non vede niente, loro fanno la circuizione, chiudono tutto e tirano su. Luigi, l'ultima curiosità: è vera questa cosa che qualcuno si mette sullo stretto di Gibilterra nell'andata e chiude con le varie reti eccetera per poter catturare più tonni, anche se non sono quelli di qualità, anche se non sono quelli che sono pronti per essere pescati, o è una storiella metropolitana? No, Gibilterra ci sono due tonnare che tra l'altro in due giorni di pesca arrivano alle quote pesca, che sono molto controllate dall'ICCAT. L'ICCAT è l'Istituto per la Salvaguardia del Tonno Rosso, e loro hanno un'assegnazione di tot quote tonno che vengono rispettate, queste, quindi. Sì, vengono rispettate, anche se per me è sbagliato, perché la tonnara fa pesca di selezione, perché il tonno a 35 kg fuoriesce dalla maglia, la maglia è talmente larga che il tonno piccolo fuoriesce. Il tonno che tu consigli in questo periodo, poi ti lasciamo andare alla tua cucina, che immagino che tra poco avrai il servizio. Ecco, questo tonno. Ma questa la pinna come deve essere? Gialla, verde, rossa? No. Allora, diciamo che il tonno, uno non lo sa, ma forse è l'alimento più pericoloso che viene servito, perché un pesce ha muscolatura calda, sangue rosso, non ha vasi sanguigni, quindi ha tutta una fascia muscolare dove cammina tutto il sangue, quindi problemi di stamina, tanti vari problemi, perché il tonno va dissanguato subito. Io dico sempre di diffidare del tonno color pantera rosa, perché quello è un tonno che arriva dall'Oceano Indiano, è sempre la famiglia dei tonni, parliamo di un pinna gialla oppure dello skipjet, di altri tonni, e vengono siringati con estratto di barbabietola, e quello non fa male, ma l'anidride solforosa. L'anidride solforosa inibisce il pesce dalla putrefazione, vuol dire che io una volta che l'ho mangiato non so se a 20 giorni, se a un mese, se a 5 giorni. Quindi sì, io dico sempre, pesci vengono di fiducia, il tonno deve essere bello rosso e non deve puzzare. Quell'odore forte che senti di tonno vuol dire che il tonno è già vecchio, però è stato dissanguato bene. Perfetto. Bene, grazie mille, Luigi, rimarrei le ore a sentire l'abbattimento. Adesso continuiamo a parlare di tonni. Grazie ovviamente a Luigi Pomarata. Fra poco anche la ricetta, prendete, accostate, perché vedremo oggi ovviamente anche le varie carte, misure, penna. E poi SOS Soldani, e poi un altro grande ospite fra poco qui Mangia Come Parli. Mangia come parli, mangia come parli. Bentornati a Mangia come parli. Beh, tante cose interessanti oggi, Sgarbi già pimpante di prima mattina, e poi tutti, insomma, le c'è quasi una partita di risico nelle acque del Mediterraneo per la conquista dei tonni, e per difendere una cultura che appartiene all'Italia molto. Fra poco avremo l'SOS Soldani, vi ricordo 349-238-6666 per i vostri messaggi vocali, ma adesso è il momento della ricetta. Allora, maestro, eccoci. Allora, ho pensato molto, sì, una cosa in facile, questi giorni, sì, per te. Naturalmente stiamo un filo sulla pasta. Sto migliorando? No, non ancora. Comunque, io direi una pasta fresca, visto buona, che andiamo sul tonno, fare un impasto di acqua e farina, anche una farina di grano duro, semola di grano duro. Mi fai fare proprio la pasta? Acqua e farina, basta. La cosa è quella che in francese si chiama pâte morte, la pasta morta. Prendiamo un po' di tonno, possibilmente, come diceva il nostro amico Luigi Pomata, una carne rossa, molto rossa. Sì. Tagliamo a piccoli cubettini, molto piccoli, sì, tenendola cruda. Sì. Mettiamo un pizzico di sale su questa pasta, delle foglioline. Sale, a me piace il sale, quello a scaglie. No, qua non va bene. Qua non va bene. Quello fine. Far figo, niente. È giusto un pizzico. Proprio il sale. Quello. Poi delle foglioline di. Scrivi, perché ti vedo un po' disattento. Stai delle calmo, foglioline. Sì. Foglioline di sedano, quelle verdi, quelle chiare, verdine chiare che hanno un profumo intenso di sedano. Chiare e verdi foglie un del sedano. Un goccino di olio extravergine di oliva. Sì. Quindi quando hai il tuo tonno condito, prendi la pasta che hai fatto, la tiri con la macchina molto molto fine, quasi trasparente. Che pasta più adatta? Questa, no, no, questa pasta di acqua e farina. Facciamo un raviolo. Ah, vedo un raviolo. Che ti sei perso un po', ok? La sfoglia ho fatto la sfoglia. La pasta. Ok. Tiri questa pasta bianca fatta di acqua bella, e farina, bella, molto sottile, come questo foglio che tu vedi che hai davanti a me. Ok. Ok. Molto fine, metti dai 7-8 grammi a raviolo, quindi posizioni il tuo tonno condito a distanza di 3-4 cm l'uno per poter fare dei ravioli. Sì, ripieghi la tua pasta, fai il tuo raviolo, se vuoi anche rotondo, perché una pasta di acqua e farina rimane molto umida. Posso fare anche il plin alla piemontese, se col, vuoi, col se ditino. Sei un artista, lo puoi fare col risvolto o il cappelletto. Il cappelletto, sì. Quindi io direi, una volta che tu hai chiuso questa pasta, ti prepari un po' di acqua bollente salata leggermente, metti i tuoi ravioli, che con una pasta così fine e il tonno che deve mantenere una cottura rosa vengono buttati dentro, conti circa 30 secondi nel momento in cui ribolle, levi questi ravioli e a parte avrai preparato un pezzettino di burro sciolto poco, un velo di succo di limone, la buccia del limone, qualche cappero e qualche oliva che a te piacciono tanto moltissimo. Quindi condisci i tuoi ravioli con questa leggera crema setata profumata al limone. Mamma mia, questa mi piace tanto. E poi assaggi e avrai un tonno molto all'italiana, perché è una pasta farcita di tradizione italiana, con però una cottura rosa. Deve cuocere un quarto d'ora come hai fatto l'ultima pasta che mi hai servito con la cacio e pepe. Un quarto d'ora a me? Guarda, devo dire tutto, meno che faccio la pasta scotta. Senti, ma mi dici qualcosa sul tonno crudo? Qualche segreto per carpaccio e tartare? Segreto di carpaccio e tartare, come diceva poc'anzi il nostro amico Luigi Pomata, deve essere comunque un tonno rosso, che io consiglio. Può essere naturalmente portato a una temperatura di 0 gradi per avere una carne molto turgida, molto dura, e quindi tagliato possibilmente con una fettatrice molto fine, poi te lo stendi sul tuo piatto. Magari consiglio di avere un piatto tiepido, non proprio freddo, così gli dà una leggera scottata. E poi, come fanno i giapponesi, che sai che sul sushi mettono un po' di wasabi, il wasabi nella storia è stato, così come il pezzettino di limone, è stato messo per dare una certezza anche sotto il profilo, come si può dire, di sanità del pesce. Ah, okay? Dal punto di vista proprio, quasi medico. Io direi, in questo caso, è il tuo foglio, mettiamo un po' di raffano grattugiato a crudo e un velo anche qui di succo di limone che aiuti un po', che aiuti a dare un po' di acidità e a conservare poi quel gusto puro che ha il tonno. Assolutamente. Idem per la tartare. C'è un amico che è venuto a trovarci, Diego Bianchi. Zoro, come stai? Bene, buongiorno. Buongiorno. Hai Diego. Fame? Hai fame? Che cosa mangi? Tu sei romano come me, e quindi sei caciopepista, carbonarista. Sono un gricista pure. Ah, gricia, tanta roba. Spieghiamo a Oldani la grandezza della gricia con parole dotte, Zoro. Ma è quel misto tra di maiale, di roba che fa male, cipolla, ma tanto buona, sì, cipolla, poi pecorino, parmigiano a seconda dei gusti, però diciamo più pecorino. Sì, più gricista, ma tutte le cose che hai detto vanno bene. Ma se dovessimo dire tonno invece nella cucina? Ma il tonno, per ipocrisia, uno direbbe insalata da insalata. dopodiché inevitabilmente ormai lo associo, lo so che è brutto forse, ma lo associo a sushi, sashimi, cose così. No, perché è brutto? Sì. No, assolutamente. No, magari una... peggioramento dei costumi, non so ora come viene intesa la cosa. Io però... vabbè, adesso mi autocito, ho fatto questo libro non autobiografico, ma il protagonista in realtà odia il sushi e lo mangia soltanto per far felice la moglie, perché poi in realtà di fondo uno mangerebbe sempre la gricia. Questo è il mio punto di vista, ma ovviamente il dibattito è aperto. Senti Zoro, noi parliamo, ovviamente cerchiamo di allargare il concetto. Tu quest'estate, e non solo quest'estate, fai un giornalismo d'inchiesta sul campo bellissimo, ti seguiamo a Propaganda Live, proprio di esperienze vere con la telecamerina in mano. Ci racconti che cosa ti è rimasto dell'esperienza nel Mediterraneo di quest'estate? Perché insomma, il Mediterraneo è la cattedrale del tonno, come abbiamo sentito qualche minuto fa, ma è anche un luogo ovviamente di grande valore simbolico per tutti noi, un luogo di grande vita, ma purtroppo spesso anche un luogo di morte. Sì, diciamo che non potevi fare un'introduzione migliore, nel senso che sì, io quest'estate sono andato nel pieno del dibattito sulle ONG, di questa grande così, distorsione anche dell'opinione pubblica su quello che effettivamente fanno e facevano soprattutto le ONG in mezzo al mare a salvare vite. Io sono salito su una di queste, una delle più discusse in quel momento, la discussione sul codice di condotta, firmarlo o non firmarlo. Questo era l'Aquarius cogestito da SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere. Sono andato a 15 miglia dalla Libia, comunque in acque internazionali, proprio nel momento in cui di fatto stavano cambiando le regole dettate poi dal governo italiano, per lo più con degli accordi fatti con i governi locali, il che significa comunque concretamente con le mafie locali, perché le due cose sono praticamente la stessa cosa, per non far partire più persone che però sono rimaste in Libia chiuse in questi centri di detenzione, non centri d'accoglienza, in condizioni assolutamente disumane. L'esperienza in mezzo al mare è stata una delle più non tanto forti dal punto di vista di quello che ho visto, perché per fortuna non ho visto morti, non ho visto neanche salvataggi drammatici. Siamo tornati indietro con più di 400 persone che erano state già salvate da altri mercantili, però ognuna di queste aveva storie terribili alle spalle da raccontare. Però mi è rimasta anche molto la professionalità, la dedizione, l'umanità delle persone che in quel momento erano nell'occhio del ciclone, trattate come scafisti, cioè delle persone che stavano lì a soccorrere, diciamo, certo. esatto, ma gente che veniva più o meno da tutto il mondo, che avevano esperienze le più varie, che c'era un pescatore svedese, gente inglese, così, che avevano deciso di mettere le proprie competenze al servizio di questa grande causa umanitaria, che davanti alla quale non era difficile rimanere con le mani in mano. E loro, nonostante tutto, appunto, nonostante il paradosso facesse sì che questi eroi, che non vogliono sentirsi chiamare eroi, però di fatto poi un po' lo sono, e stavano lì ad essere accusati del contrario, di essere trafficanti e scafisti, anche spesso da parecchi politici italiani, stavano lì a continuare a salvare vite, a fare il loro lavoro. A me quello che colpisce è, ovviamente, guardando i reportage di questi giorni, sai, ho visto per esempio quelli da Calais e da altre parti del mondo, ma la cosa da ingenuo, da uno che si occupa di sport, che mi colpisce di più è proprio questa clamorosa distanza che esiste fra il Mediterraneo, che è il luogo dei nostri sogni. Insomma, io sono pazzo di Ponza, ci sono delle isole meravigliose, che diventa in certi momenti lo stesso luogo in cui si consumano situazioni come queste, e mi sembra, insomma, un tema enorme, molto lontano da risolversi, ma che, insomma, tu continuerai a documentare, e noi ti seguiamo, Propaganda Live, a profusione. Grazie mille, grazie assai. Ti abbracciamo, eh. Poi Gricia in arrivo per tutti noi. Contorno. A proposito, Gricia Contorno, si può fare Gricia Contorno? Si può fare, magari, come diceva prima, magari con un tonno in scatola. Carbonara di mare si può fare. Dire. Ma com'è il tonno in scatola? Non è una cosa che farei, però, visto fa schifo il tonno in scatola, oppure ci sono dei tonni in scatola di qualità? No, schifo non fa nulla, perché anche la storia del tonno in scatola arriva dal fatto che nella storia c'era una grande produzione e poi ne veniva conservata una parte o sotto sale oppure appunto messo nelle scatole. Quindi c'è una storia dietro anche questo. Tonno, prima hai parlato, adesso fra un po' abbiamo la ricetta che era viola. Pasta col tonno ti piace? No, io direi che il tonno è talmente una carne pregiata di valore che il più buono, secondo me, è comunque servirlo sempre in maniera cruda o appena scottato. Se lo fai anche con una pasta lunga e secca, diventa un qualcosa in più. Quindi eviterei di abbinare, questo è il mio gusto personale, sì, una pasta lunga con un tonno fresco. Ecco. Quindi c'è la classica pasta così dell'ultimo minuto col pomodoro, il tonno non ti emoziona. Se parli di tonno in scatola, questo è insomma, a seconda di quello che uno ha in casa, lo può fare. Non è una cosa che consiglio se devo iniziare a fare una spesa per fare un menù. E c'è una moda del tonno? Il tonno è di moda? Il tonno è stato di moda negli ultimi anni. E ci sono anche, insomma, il perché è spiegato, perché comunque è un pesce abbastanza grande, dove hai, se vuoi, meno scarto rispetto ad altri pesci un po' più piccoli, e poi hai praticità nell'utilizzarlo. Il problema è che sono nate i momenti in cui c'è stata la sovrappesca, quindi, come diceva prima Luigi Pomata, poi i blocchi, poi nessuno rispetta le leggi, e quindi siamo andati proprio a raschiare il fondo difatti in questo momento c'è un blocco che non ci permette di avere la cosa fresca, quindi c'è stata la moda è stata per praticità, adesso dobbiamo tornare un passo indietro, aspettare che ci sia ancora la possibilità di farlo e poi valutare che il tonno che abbiamo nel Mediterraneo sia il migliore e sia quello naturalmente da utilizzare. Assolutamente, fra poco torniamo, è il momento dell'OS Soldani, è il momento della ricetta per capire se ci ho capito qualcosa, è il momento della canzone, i vostri SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Mangia come parli, mangia come parli. Mangia come parli, in attesa dell'SOS Oldani e della ricetta. Io ho una curiosità su una cosa che mi fa impazzire. Sono quasi tutte le cose che mi fanno impazzire. La bottarga. La bottarga. Cos'è la bella, bottarga? Grandissima cosa. Tu prima dicevi di una pasta secca. Allora, una pasta secca e lunga, io vedrei anziché il tonno, la carne, cioè quindi tutto il filetto, utilizzerei la bottarga, che non è altro che. Non sono altro che le uova. Di tonno essiccate, messe in salagione e quindi tagliate in maniera sottile nel caso della bottarga di tonno oppure grattugiate nel caso della bottarga di mugine. Che cambia tra tonno e mugine? Sono due pesci diversi, come, sì, e naturalmente poi c'è un metodo di conservazione diverso. Quando io vedo la bottarga di tonno che ha questo rosa all'interno, che ha un profumo che è leggermente sapido però molto attaccato al pesce, io impazzisco. Sono due, ti dico, una bottarga di tonno fatta con il giusto, calibrata con il giusto quantitativo di sale, può essere mangiata anche così a crudo. Una bottarga di mugine deve per forza condire un qualcos'altro perché rimane sempre un po' più sapida. Quella di tonno è un po' più difficile da fare. Bene, SOS Oldani. SOS Oldani. Laura da Torino. Salve chef, è vero che per cucinare la polpetta perfetta bisogna mischiare due tipi di carne? La polpa di manzo e la polpa di maiale? Io direi no, perché la polpetta, come la intendo io milanese, è fatta con due o tre tipi di carne, va bene, con qualche pezzo di salume, ti parlo di prosciutto cotto piuttosto che mortadella alla vecchia ricetta, però no. Con carni cotte, non con carni crude. Mondeghili si chiamano? I mondeghili, bravo. Buoni. E sono fatti con carni cotte e alla fine risultano poi molto teneri. La diversità tra questo e l'hamburger è proprio il fatto che una sia fatta con carne cruda e l'altra con carne cotta. Mondeghili o polpetta romana, dura, è un bel derby. Paolo da Roma. Salve chef, c'è un piatto della tradizione italiana che le piacerebbe rivisitare ma non ha avuto ancora il coraggio di farlo? Certo, sì, mi piacerebbe, lo farò, ci sto lavorando, è quella del raviolo aperto, che è una nuova cucina italiana fatta da Gualtiero, dal mio grande maestro Gualtiero Marchesi, e mi sono sempre ripromesso che un giorno lavorerò su questo piatto, il raviolo aperto. Perché meglio perché aperto? No, lui l'ha ricomposto e l'ha fatto stravolgendo la cultura italiana nel chiudere. Non è male chiuso, no, pure chiuso non è male. Cultura italiana, il raviolo era chiuso. Lui l'ha aperto, ha dato il suo perché circa 30 anni fa. Mi piacerebbe lavorare su questo progetto di raviolo aperto. Mi piace moltissimo questa cosa. Rita da Cosenza, sentiamo. Salve chef, le salse per le grigliate vanno sempre marinate prima? Le salse per le grigliate vanno sempre marinate prima. Si capisce poco la domanda, però immagino volesse dire se ogni salsa va bene sulla tipologia di carne che si griglia. Io direi che sì, io metterei prevalentemente salse fatte con le erbe alla fine della grigliata, non prima e durante la grigliatura della carne, e poi magari qualcosa, se si vuole svagare un po', qualche salsa che può dipendere anche dalla maionese o una salsa rosa. Ecco, hai capito, roba seria, roba molto seria. È arrivato il momento della ricetta. Eccoci qua, il momento della ricetta. C'è sempre Simona? Buongiorno. Buongiorno Simona. Ormai ti associo a questa amena musichetta. Ho lasciato tutto a posto a casa? Tutto a posto. Ho sporcato? No. Sempre. Come sempre. Ha svuotato il frigo? Sì, e quello esatto. È già vuoto di suo. Quello non è mai molto pieno. Va bene, il momento della ricetta. Allora, chef, abbiamo dato un titolo alla ricetta che certo. Mi hai proposto. Puoi inventarlo tu. No? Un raviolo di tonno, capperi, olive. Raviolo chiuso. Perfetto. Allora, Simo, ascoltami perché oggi certo. Veramente sono molto ispirato. Allora, io faccio un bel impasto di acqua e farina, quella che gli amici francesi chiamano pâte morte. pat mort, cioè pasta morta. Senti come tecnico. Questo impasto di acqua e farina lo faccio, mi sporco le mani, ma ne vale la pena. Nel contempo prendo un bel tonno di quello carne rossa, magari i tonni quelli che stanno ancora a pancia vuota, che da Gibilterra arrivano in entrata, verso Carloforte, verso la Sicilia, verso il nostro Mediterraneo, e lo divido in cubetti crudi. Aggiungo del sale. Io ti dico la verità, avrei messo il nostro sale, quello che mi piace, quello molto interessante, quello a scaglie. Ripeti, quando avrei fatto bene potrei inventare le ricette. Allora partiamo col sale normale, hai ragione. Poi che facciamo? Prendo delle foglioline di sedano belle chiare. Esatto. Che ci faccio? Queste foglioline me le. È facile, le condisco. Le appoggi sul tuo tonno, che hanno un profumo intenso di sedano. Appoggio. Aggiungo dell'olio extravergine d'oliva. Potremmo usare, non lo so, un bell'olio ligure, taggiasco. Se ti piace, va bene. Potrebbe essere anche un siciliano. Tu sai, un gusto un po' più. A me piace un gusto un po' forte. Ruvido. Sì, un siciliano, un pugliese. Vabbè, 7-8 grammi. Di questo impasto per ogni raviolo, ovviamente poi va diviso. Ma il raviolo come lo fai? Tirando la pasta bianca? Lo faccio tirando la pasta bianca. Poi a me piace farlo col plin, perché comunque insomma ho imparato quest'arte, questa tecnica dai maestri piemontesi, giusto? Quindi col ditino posso fare. È una forma diversa. Il raviolo. A quel punto li metto, quando l'acqua sta bollendo, per 30 secondi in acqua, nuotano. Prego Dio che non si aprano, cioè che deve chiuso bene l'impasto, non si aprono sicuro. L'acqua e farina con questa pasta molto umida, difficilmente. Potresti farli rompere tutti, ma difficilmente si rompono. Hai fiducia in me, Simo? Hai fiducia no. in me? No, perfetto. Grazie, siete veramente due che mi motivano. Nel contempo preparo un po' di burro sciolto, aggiungo un po' di succo di limone, ma la buccia del limone non la butto, la grattugio sopra. Leggera, ma chiaramente tutto leggero. Gli oli essenziali del limone. Esatto, gli oli essenziali del limone. Aggiungo dei capperi e delle olive e quindi ho creato una sorta di cremina. Una salsa leggermente vellutata. Salsa leggera. Che a quel punto metto sulla... Condisce questi ravioli. Vabbè, e poi basta, mangi un tonno semi crudo, direi, esatto. col profumo intenso e ovviamente con un po' di carboidrato, che va sempre bene. Senti, che dolce proporrai sul blog, le torte di Simona legato al tonno, una cosa leggera, Sì, io pensavo a una mousse di limone semplicissima, che in realtà io faccio facendo uno sciroppo di limone, quindi mettendo a bollire lentamente un po' di limone, zucchero, un po' d'acqua, e poi questo sciroppo lo aggiungo a filo in una alla ricotta montata con lo zucchero. Sì. Basta. 2 ore in frigo, ognuno ha la sua coppettina, è molto fresco e leggero. Certo, ci sta. Cosa vuoi aggiungere qualcosa? Direi perfetta, magari un tocco in più di bergamotto, direi, perché è un agrume che mi piace tanto, anche e magari utilizzando anche la buccia del bergamotto sopra, credo che il dolce sia perfetto. Benissimo. Bene, lo farò. Anche oggi è andata bene. Insomma, diciamo ormai che siamo tre colleghi siamo, no? Anche De Luca e Ferronate siamo 5 colleghi. Va bene, il momento della canzone. Vi propongo un classicone molto romantico degli anni 70, della versione di Rod Stewart, che ci fa pensare a tutti i temi che abbiamo trattato oggi, anche quelli molto seri che riguardano ovviamente il Mediterraneo, questo nostro mare meraviglioso. E insomma, il concetto è sempre quello dei naviganti. La canzone è Sailing. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. Classico, romantico, ruvido, bellissimo. Qui Rod Stewart, siamo in chiusura come tutti i giorni. Vuoi dare un consiglio finale, una delle tue battaglie, no? Sul, sul recupero, sulla sostenibilità, sul non spreco. Appoggio e confermo ancora di più quello che diceva prima Luigi Pomata, la parte centrale della testa del tonno che di solito viene buttata, di fare attenzione, di poterla recuperare, che poi può servire per, da servire con uno stuzzichino, da servire come, come secondo piatto, addirittura con un riso molto milanese. Quindi questa parte è un po' come quella parte del pollo di cui parlavamo, solilès. Il bocconcino del pesce, che praticamente il culetto del tonno. Non è il culetto, la parte bassa della schiena. Non è proprio il culetto. Sì, è il culo, culo e alto. Questa del tonno, invece, è la parte anteriore, che di solito viene buttata. Invece, è una parte, come diceva Luigi, molto pregiata. Insomma, del tonno non si butta niente. Spero che vi siate divertiti. A me è venuta oggi una fame, perché il tonno mi fa impazzire. E sono le 10 di mattina. Beh, a parte questo, tutto bene. Grazie, mangia come parli. Un saluto da Piero Gipardo. Grazie, da Davide Oldani. L'ho finita come fosse una telecronaca, questa roba qui. Va bene, super spot.